E allora buonasera a tutti e a tutti, ben trovati per una nuova puntata di Entropia Massima. Ben trovate e ben trovati a una nuova puntata di Entropia Massima, e questa sera si parla di economia circolare con Assud. Ne avevamo già parlato e quindi lascio la parola chiedendovi subito, così un po' per reintrodurre, anche se appunto già avevamo fatto una puntata su questo argomento, di che si tratta, cioè che cosa si intende in termini generici, appunto per rientrare un po' in argomento, di cosa si tratta quando si parla di economia circolare. Allora, quando parliamo di economia circolare ci riferiamo a un nuovo modello economico e a un nuovo modo di pensare l'economia, e attraverso un modello che abbandoni quello cosiddetto lineare o usa e getta, in cui dalla produzione si passa all'uso e poi al gettare e alla fine di vita di un prodotto, qualsiasi prodotto, come appunto un rifiuto, a reintegrare invece le materie prime e trasformarle, cioè le materie prime, ritrasformare le materie in materie prime seconde, ovvero è un'economia in cui si cerca di chiudere il cerchio per limitare i flussi sia di materia che di energia in entrata, e è un modello sicuramente più compatibile e più sostenibile. L'economia circolare è, in realtà è quella che facevano già i nostri nonni, no? Cioè del maiale non si butta via niente, e quella a cui diciamo è un modello economico in realtà abbastanza scontato, basta prendere esempio dalla natura in cui il ciclo si chiude da sé, e è stato coniato questo nuovo termine per ritrovare questo modello perso, e è stato coniato dalla fondazione Ellen MacArthur, che appunto ci dice che è un termine generico per definire un'economia che è pensata per potersi rigenerare, reinserendo i materiali nella biosfera, quelli biologici naturalmente, e invece quelli tecnici rivalorizzarli senza rimetterli nella biosfera, ma reintrodurli in nuovi modelli produttivi. E come Assud abbiamo fatto in realtà un'operazione di approfondimento che è confluita nel progetto Storie di Economia Circolare. Storie di Economia Circolare parte da dai criteri della Ellen MacArthur Foundation, ma si indaga anche attraverso dei criteri dei nuovi criteri quali sono anche gli impatti ambientali, le esternalità ambientali ma anche sociali di questo modello economico. Esternalità ambientali si intende? E gli impatti che può avere sull'ambiente, su un territorio, e che possono essere positivi o quindi arricchire il territorio, oppure esternalità negative che possono, come il vecchio modello produttivo, quello lineare soggetta, comportare delle esternalità appunto negative, avere impatti negativi sia sul territorio che sulla salute delle persone che lo vivono. Ok, quindi come a Sud avete affrontato questo tema? È già parecchio tempo che ci state lavorando. Sì, abbiamo avete impostato il lavoro su un atlante. Sì. In Italia, giusto? Sì, storia dell'economia circolare appunto prevede due strumenti. Il primo è l'Atlante, il primo Atlante italiano dell'economia circolare, in cui abbiamo mappato le storie virtuose, gli esempi virtuosi di realtà profit, ma anche non profit, associazioni o progetti di ricerca che applicano in Italia appunto i principi dell'economia circolare. E sono realtà che non solo recuperano a fine vita i materiali, ma il primo criterio dell'economia circolare, se vogliamo, in realtà è progettare in chiave circolare, cioè io progetto un prodotto, un servizio affinché causi limiti gli scarti e allunghi la vita di un prodotto. Quindi i criteri che andiamo a vedere sono la modularità, la versatilità dei prodotti e dei servizi. Se un prodotto è scomponibile, modulabile, io posso ripararlo più facilmente, posso allungare la vita di quel prodotto e quindi farlo arrivare a fine vita il più tardi possibile. Questo ci aiuta a ridurre gli scarti e a ridurre il momento in cui arriva il rifiuto, le famose 3 R: riduco, riuso e solo alla fine riciclo. Quindi per ridurre e riusare ho bisogno di progettare in chiave circolare un prodotto. E quello di cui teniamo conto in realtà anche tutta un'altra serie appunto di criteri, come le energie, l'efficienza energetica di un'azienda che si definisce circolare, perché quello che ci interessa è non dare spazio al greenwashing, cioè a quelle realtà che si mettono il vestito verde, fanno finta di tenere all'ambiente, ma solo perché adesso la parola sostenibilità va di moda, e quindi quello che ci preme è stare attenti a non inserire nell'Atlante questo tipo di realtà. Quindi tutti i criteri, che da 5 sono 5 criteri quelli delle Mercator Foundation, noi siamo arrivati a 10 invece dimensioni di circolarità, ognuna con dei sottocriteri che appunto ci permettono che sono stati poi. Da questi criteri abbiamo redatto un questionario che sottoponiamo a queste realtà per vedere se realmente sono circolari oppure se prendono in giro le cosa da cui bisogna assolutamente stare attenti. Sì, difenderci, stare attenti. Sì. Va bene, quindi direi facciamo un piccolo stacco musicale, anche se appunto molto all'inizio, ma così possiamo chiamare uno dei vostri contatti, sì, esterni. Quindi una piccola pausa. E allora ritorniamo in voce, questa era la Yegros. E una puntualizzazione da Florinda. Ciao a tutti e a tutte. In realtà io non faccio proprio parte di Assub, perché faccio parte della giuria tecnica che segue questo concorso di storia ed economia circolare di cui parleremo tra poco. E la cosa che mi ha affascinato di più quando mi hanno raccontato di questo progetto, il progetto dell'economia circolare, e soprattutto quello di mappare storie di economia circolare, è stata una cosa in realtà molto semplice. L'economia circolare in pratica, appunto, in maniera molto, molto semplice, molto normale, riesce a dare una nuova opportunità, una nuova vita a quello che comunemente viene ritenuto uno scarto. Per cui quello che per qualcuno è semplicemente uno scarto, è quasi immondizia, roba da buttare, per chi pratica economia circolare diventa materia viva, viene rinnovata e diventa addirittura un'opportunità economica, quindi rimette in circolo una cosa che era destinata a finire. Quindi il concetto che più mi è piaciuto è quello di ridare opportunità a quello che viene ritenuto ormai senza speranza, senza futuro, ecco. Scarto è da fermare, appunto, esatto. In discarica. E abbiamo quindi una chiamata? Sì, abbiamo in linea Davide Erba, che ha creato una piattaforma, appunto, dove è possibile scambiare gli abiti usati per bambini. Ci sei, Davide? Sì, buonasera a tutti. Ciao Davide. Grazie della telefonata. È molto interessante quello che noi siamo proprio, Armadio Verde è nato proprio per, come dire, dare questa opportunità, quindi creare l'opportunità di ridare valore ai vestiti che non vengono utilizzati più, scambiandoli con altri che non vengono utilizzati da qualcun altro, quindi è proprio una piattaforma dove vengono scambiati i vestiti. E questa, come dire, noi quotidianamente riceviamo migliaia di vestiti che vengono selezionati, vengono pubblicati online, e chi manda vestiti guadagna questa moneta di scambio che si utilizza su un'altra piattaforma, che sono le stelline. E con queste stelline che si guadagnano mandando vestiti, si spendono, queste stelline vengono spese come in un qualsiasi e-commerce per prendere altri vestiti che sono pubblicati, mandati da altre persone. Il beneficio di questo servizio è che chiaramente pagando i vestiti, sostanzialmente mandando vestiti e guadagnando queste stelline, i vestiti praticamente si acquistano con altri vestiti mandati non utilizzati, quindi le stelline praticamente sono la moneta di scambio con cui io posso ricomprare vestiti mandati da qualcun altro. Noi garantiamo sul livello qualitativo, e chiaramente non potendo vivere se non anche di euro, c'è una piccola parte che è veramente marginale rispetto al valore del vestito che viene commercializzato, che è il costo del servizio, che è, diciamo che prevalentemente è 3-5 euro per il 90% dei vestiti che sono pubblicati online. Abbiamo circa 50.000 vestiti, di cui 8.000 da donna, perché abbiamo appena lanciato adesso l'8 di marzo scorso anche il servizio vestiti da donna dopo il successo dei vestiti da bambino, e quindi diciamo che il nostro servizio continua a crescere, abbiamo clienti super soddisfatti che si liberano di vestiti e li andiamo a prendere a spese nostre a casa, per cui non ci sono mai spese di spedizione per inviare i vestiti al nostro centro, diciamo, di selezione prodotto, e quindi diciamo è molto economico e vantaggioso e veloce, facile, tutto comodo da casa e con, come dire, una garanzia di qualità che certifichiamo noi sostanzialmente. Senti Davide, una curiosità, come vi è venuto in mente di mettere insieme una cosa, appunto, come il riciclo, una pratica di sostenibilità, e inserirla in un e-commerce, quindi su una piattaforma online super digitale, super futuristica, diciamo? Come avete unito queste due anime e come vi è venuta in mente l'idea di creare questo? Allora, grazie della domanda. Allora, l'idea è venuta proprio da un'esigenza personale, cioè dopo un anno dalla nascita della nostra prima figlia, abbiamo visto che l'armadio scoppiava di vestiti, anche non messi, nel senso che comunque ci si sbaglia a volte di fare gli acquisti, si comprano magari in saldo per la stagione successiva, poi il bambino ti fa lo scherzo di crescerlo di più o di meno, per cui vestiti nuovi con cartellina, avevamo un armadio veramente pieno. Io facevo il consulente e mi sono cercato una soluzione che fosse un po' più moderna del classico mercatino dell'usato, dove si portano in conto deposito i vestiti, e non l'ho trovata in Italia. Ho detto, ma perché non la facciamo noi? Quindi l'idea era: ma perché non esiste un posto dove io posso portare questi vestiti che vanno bene a qualcuno che ha i figli più piccoli dei miei, e prendo quelli che ha lasciato qualcuno che ha i figli più grandi dei miei, pagando una piccola differenza? Perché, come dire, volevo immediatamente, come dire, il riscontro del valore, no, di lasciare vestiti che non usavo più, che però potevano interessare a qualcun altro. Quindi il vantaggio che abbiamo inventato sostanzialmente e creato, che poi è diventato Armadio Verde, è quello di dare immediatamente un valore a chi, come dire, ha qualcosa di inutilizzato nell'armadio, perché a differenza di un mercatino dell'usato, dove porto delle cose in conto deposito, vengono vendute, poi mi daranno la metà del valore del prezzo di vendita se le avranno vendute, in realtà noi non cerchiamo clienti, il cliente per chi ci manda i vestiti siamo noi, immediatamente diamo il valore, come dire, per poter prendere subito vestiti che gli servono pagando una piccola cifra di differenza, no? Quindi, come dire, è un po' come dar dentro un usato senza avere la possibilità però chiaramente di avere indietro subito una sorta di riconoscimento economico. Diamo un valore che è molto elevato, perché il valore che noi diamo il controvalore che noi diamo dei punti, stelline che vengono spediti, sono esattamente il valore dei vestiti come vengono pubblicati, perché se tu mandi un vestito e ti do 10 stelline, quel vestito viene pubblicato con 10 stelline e tu con 10 stelline ne puoi prendere uno analogo, aggiungendo 3 euro, 5 euro, capito? Dipende dal brand. Chiaramente, per darvi un'idea, il nostro range di prezzi è da 3 fino a un massimo di 15 euro, ma che non spaventi i 15 euro, perché 15 euro è per i vestiti top brand di lusso, per darci l'idea, non voglio fare nomi, ma con nuovi, con cartellino mai indossati. Immaginate di comprare un piumino, come dire, di una marca rinomata, nuovo, un cartellino mai indossato, a 15 euro. Ecco, questo lo si può fare, si può diventare maghi se io mi libero di quello che non utilizzo più, quindi guadagnando le stelline che poi mi permettono di accedere a questa offerta. Benissimo, chiarissimo, Davide, grazie. Grazie. Un'ultima domanda, e quello che rimane poi per ultimo, oppure che non viene ritenuto abbastanza, diciamo, buono da essere inserito sulla piattaforma, o quelle cose che rimangono in giacenza per tempo, che fine fanno? Vengono allora poi... noi, esatto, questa è un'altra domanda, cioè come è nato questo progetto? Il nostro obiettivo era quello di allungare al massimo il ciclo di vita del prodotto, anche quello che in realtà non ha un mercato per i clienti che ci mandano i vestiti, perché chiaramente li mandano ma ne vogliono belli, altrettanto belli e anche più belli di quelli che mandano, che chiaramente noi selezioniamo con cura e attenzione, quindi sono solo in perfette condizioni, non ci sono strappi, non ci sono macchie, non ci sono aloni, cioè sono esattamente i vestiti che uno vorrebbe poter comprare in sicurezza. Tutto ciò che non può, che non passa questo filtro di selezione, noi abbiamo stipulato degli accordi con organizzazioni umanitarie, umana.org nello specifico, a cui doniamo, se il cliente chiaramente non li vuole indietro, doniamo i vestiti a sostegno di progetti di beneficenza. Questi vestiti vengono poi inviati nei paesi del terzo mondo e quindi hanno comunque un'altra vita, no? Quindi per piccoli difetti magari non possono essere commercializzati sulla nostra piattaforma, per l'esigenza, come dire, di iperqualità che chiedono i nostri clienti, questi vengono comunque distribuiti e hanno comunque una seconda vita, e questo per noi vuol dire non sprecare niente, no? Quindi, per darvi l'idea, quando noi spediamo i nostri vestiti, li spediamo in scatole di cartone, sopra c'è scritto non rompere le scatole, invitandoli simpaticamente a riutilizzare la scatola, come è scritto poi all'interno, per rimandarci altri vestiti. Quindi il nostro obiettivo è quello di minimizzare gli sprechi e massimizzare le risorse che mettiamo in gioco, anche la scatola con cui ti spediamo i vestiti, invitandoti a riutilizzarla per non buttarla, no? Quindi, cioè, cerchiamo di evitare gli sprechi e allungare il ciclo di vita di tutto ciò che utilizziamo il più possibile. Bene, chiarissimo, grazie mille, Davide, della spiegazione del vostro lavoro. Grazie a voi. Visitate il sito armadioverde.it, troverete sicuramente quello che fa per voi, ecco, noi lavoriamo per questo. Grazie, va bene. Grazie mille, ciao, un saluto. Ciao, Davide. Grazie. E allora ritorniamo in voce, in sede, diciamo. E riprendiamo a parlare di come si sta organizzando appunto a sud, nel senso stavi dicendo vi state muovendo su due canali, quindi uno sì. È quello dell'Atlante e quello dell'Atlante che ha già l'obiettivo, diciamo l'Atlante ha l'obiettivo non solo di fare rete tra queste realtà affinché si crei appunto una simbiosi, anche perché per chiudere il cerchio c'è, ma poi quello che ci preme è sensibilizzare sull'argomento il grande pubblico, e quindi l'Atlante è anche un modo dove trovare questo tipo di realtà e cambiare i propri consumi e avere uno stile di vita più critico e quindi avvicinarsi ai consumi critici. Ci siamo domandati come potessimo fare per lanciare ancora in modo più amplificato questo messaggio, e quindi è nata l'idea del concorso, che è appunto il secondo strumento di storia di economia circolare. Il concorso ha 4 categorie in gara, sono 4 linguaggi diversi: la fotografia, il video, la scrittura e appunto il linguaggio radiofonico. E quindi è un appello al mondo degli addetti dell'informazione, ai creativi d'Italia, a cui chiediamo appunto di raccontare queste storie di economia circolare affinché possano arrivare a un pubblico sempre più ampio e aiutarci a sensibilizzare l'Italia su questo argomento. E l'iscrizione al concorso è gratuita e abbiamo lanciato proprio in questi giorni la proroga, che dal 31 maggio l'abbiamo allungato la scadenza al 30 giugno, quindi c'è ancora tempo fino al 30 giugno per inviare i reportage, che appunto devono essere dedicati a una storia di economia circolare che può essere scelta tra quelle sull'Atlante, oppure possono darci una mano a intercettare nuove realtà in Italia che ancora non abbiamo trovato, e candidandole al concorso e attraverso la candidatura al concorso ad aiutarci a mappare e ampliare questa rete di esperienze virtuose che ci sono in Italia. Benissimo, facciamo allora un ulteriore stacco musicale per dare il tempo di chiamare il secondo contatto. Quindi a fra poco. Yeah. E questa era Bjork appunto con Human Behavior. E ritorniamo a Entropia Massima con Assud che ci parla di economia circolare. E riparliamo un momento di dell'Atlante, ridiamo alcune chicche sull'Atlante. Sì, no, piccole riflessioni, anche indicazioni, perché sul sito economiacircolare.com c'è la parte dedicata appunto all'Atlante di economia circolare, che ha già secondo me una grafica veramente molto fruibile, oltre che molto carina, perché ci sono tanti loghi, loro hanno identificato tutte le categorie di economie, di situazioni, di aziende che si occupano di economia circolare, con dei loghi anche piuttosto chiari, molto, fatti molto bene, e si accede a tutte le categorie che più o meno coprono veramente, non dico lo scibile umano, però passano dall'agricoltura all'informatica, alle piattaforme di sharing, al commercio, alla cosmetica, alla carta, alla cancelleria, all'arredamento, per cui è molto semplice scegliere da che punto di vista cercare su questo Atlante le zone o le aziende più virtuose, e poi si può scegliere sia tramite le regioni sia tramite appunto queste categorie. E già l'impatto, noi vediamo in base alle realtà che sono state mappate, in che zona d'Italia ci sono più riciclo, più sostenibilità sull'abbigliamento, sull'informatica, eccetera, per cui dà sia un impatto visivo che poi anche una grande fruibilità per chi è interessato ad acquistare o insomma ad avere come punto di riferimento aziende in realtà di questo tipo. Utilizzarlo proprio. Utilizzarlo, sì, è molto semplice e piacevole. E quindi abbiamo un nuovo contatto esterno. Sì, Noemi, ci senti? Ciao, buonasera, grazie di questo invito. Allora Noemi, ti abbiamo chiamato perché vogliamo che ci racconti appunto l'esperienza di Giunco, che ha creato un'app che ci aiuta a fare la raccolta differenziata e ci aiuta anche quando ci spostiamo e andiamo in un altro comune e non sappiamo le regole di quel comune per la raccolta differenziata. Parlacene un po', Noemi. Molto volentieri. Allora, noi viaggiavamo moltissimo per lavoro e ogni volta in ogni città dovevamo rimparare a differenziare gli oggetti, gli stessi oggetti che avevamo imparato a differenziare a casa nostra. Allora da informatici ci siamo posti il problema: che cosa si può fare per aiutare in un modo facile e sicuro chi come noi deve differenziare praticamente tutti gli italiani, e ci è venuto in mente che il codice a barre è un codice univoco che è associato a un unico prodotto, e da lì ho fatto un po' di prove. Insomma, alla fine, dopo 3 anni, abbiamo questo database di oltre 1.500.000 prodotti che la nostra app riconosce e scompone nelle sue componenti, dice di che materiali sono fatti e dove ogni materiale va conferito dopo averci localizzato, in modo da darci il connettore della raccolta esattamente del comune in cui ci troviamo. Questa cosa è a disposizione di tutti, ha avuto un successo pazzesco, e tanto che abbiamo deciso di aprire al contributo anche degli utenti, e ben un decimo di questi prodotti ormai è suggerito dagli utenti, e ve ne accorgete perché se provate Junker molti prodotti riconosciuti hanno una foto con una mano che tiene l'oggetto, che non è certo una foto di catalogo ma è una foto scattata dai nostri utenti che ci hanno suggerito prodotti che mancavano. Un'avventura bellissima. Beh, veramente, cioè, siamo rimaste senza parole. Ci guardavamo, in effetti un lavoro incredibile, nel senso enorme. Un lavoro, diciamo, di backstage grandissimo. Ci avete lavorato appunto 3 anni, in quanti? Allora, per fortuna in realtà noi siamo i fondatori, siamo in 4, adesso saremo una decina di persone più o meno, chi a tempo pieno, chi part time, però un grande aiuto ce l'ha dato l'intelligenza artificiale, perché il segreto di questa operazione è che in realtà gli strumenti ci sono, basta metterli insieme, quindi una solida conoscenza dell'informatica, un enorme lavoro di ricerca dei barcode dei prodotti e un lavoro di censimento dei materiali che abbiamo fatto tutti noi, aiutati però da sistemi di propagazione delle costanti categoria per categoria, tipo i fagioli in scatola della Buitoni probabilmente hanno lo stesso confezionamento di quelli della Barilla, o è vetro o è lattina. Grazie a questo sistema siamo andati molto molto veloci. Senti Noemi, tu parli di grandi competenze informatiche, ci credo, a me sembra quasi una magia, però quello che mi chiedo è come avete incrociato, cioè avete mappato i materiali tramite barcode, e questo più o meno mi sembra comprensibile, però poi come li avete abbinati ai vari luoghi? Quindi quel materiale su quel in quel luogo, in quel paese, in quella città viene differenziato in un modo o in un altro? Allora, in realtà la difficoltà è stata abbinare i materiali ai prodotti, perché il barcode, scusate, il barcode in realtà riporta solo di legge il produttore e il prodotto. Noi ci abbiamo aggiunto il censimento dei materiali, quindi lì è stato il lavoro grande. Invece più facile è stato associarlo ai comuni. Perché? Perché i nostri cellulari, gli smartphone, ci geolocalizzano, quindi hanno il GPS. Noi sappiamo, quando un utente scansiona un prodotto, sappiamo da dove lo sta scansionando, e quindi possiamo associarlo a un altro DB, che è quello tipico del modo di conferimento della sua zona. Incrociamo due set diversi di dati, i materiali e le regole del comune in cui si trova il nostro utente. Questo lo facciamo a una velocità praticamente istantanea, in modo che l'utente, in un blip, come diciamo sempre, abbia subito la sua risposta. Sempre senza parole, senza parole. Infatti dietro c'è molta più tecnologia di quello che sembra usando l'app. Il lavoro grande è come la punta dell'iceberg, il lavoro grande è sotto. Ma si immagina, da quello che racconti si immagina facilmente. Ma grazie. E tra l'altro è un lavoro continuo, perché noi abbiamo ormai un help desk di 3 persone che fa solo questo tutto il giorno. Riceviamo circa 1200 segnalazioni di nuovi prodotti ogni giorno, o di correzioni, perché se notano delle imprecisioni i nostri utenti ci scrivono, e questi ragazzi fanno solo questo. Tra l'altro è una figura professionale, perché sono un mix di esperti informatici e esperti di packaging. Capito. Quindi, e più o meno quanti utenti avete? Oggi stiamo per toccare 500.000 utenti, sia Android che Apple. Quindi, scusa, una no, curiosità, voi e degli altri. Scusa, li avete localizzati? Sapete se è al centro, nord, sud, oppure sono abbastanza? Sì. Praticamente sono, li abbiamo in tutta Italia, con delle densità un po' a macchia di leopardo, è una frazione che sta crescendo tantissimo, più di quella è il sud, più del nord. Penso. Forse perché sono meno chiare le regole di riciclaggio, quindi hanno bisogno perché di essere perché il porta a porta si sta diffondendo con più vigore adesso al sud, mentre il nord magari è partito da più tempo. Certo. E quindi la situazione è più calda in tutti i sensi. Benissimo, quindi adesso che si avvicinano le vacanze la gente in teoria si sposta, se non sa dove buttare nel cestino si aiuta in questo modo. Esattamente, proprio oggi abbiamo presentato a Sanremo, Sanremo è stato il primo comune che oggi ha lanciato una campagna di sostegno per la differenziata durante la stagione estiva, dove invece è il periodo dell'anno in cui la percentuale di raccolta differenziata si abbassa, perché arrivano i non residenti o i turisti che sono più inesperti, e invece stanno rilanciando Junker, che è in 9 lingue oggi, in modo da farla usare anche a turisti e a chi prende in affitto le case, per differenziare bene come i residenti e lasciare il mare più pulito di come lo troviamo, e anche la montagna. Assolutamente, magari. Va bene, grazie. Siamo... mille, ti ringraziamo moltissimo per la testimonianza. Ora ci scriviamo. Ci scriviamo, certo. Caricate Junker e usatelo, e segnalateci quello che manca. Va bene, grazie Noemi. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a voi soprattutto. E allora ritorniamo e vediamo di ritirare le fila, insomma, con questi due esempi, effettivamente sempre con informatica di mezzo. Sì, perché, questa volta ci siamo dati all'informatica. Esatto. E per concludere ritornerei sul concorso e lascerei la parola a Florinda, che è qui appunto in qualità di giurata, e visto che ci troviamo in radio e lei è la giurata della categoria radio per il concorso, le chiederei dei consigli per chi ha voglia di candidarsi e mandarci un reportage radiofonico che racconti l'economia circolare. Allora, io quello che ho pensato quando mi avete chiesto appunto come si può fare un radiodocumentario, io credo che in generale un radiodocumentario debba seguire queste parole chiave, questi consigli, poi a maggior ragione per raccontare le storie di economia circolare, però le parole che secondo me sono importanti da seguire, quindi le parole chiave da seguire sono narrazione, suono, curiosità, contesto sociale e condivisione. Vi spiego molto brevemente perché. Allora, la narrazione è la cosa che ti permette di ascoltare una storia, stiamo parlando di storia di economia circolare, non stiamo facendo degli spot. Ecco, per esempio, quando abbiamo sentito prima il referente dell'Armadio Verde, no? A me interessava sapere come gli viene in mente, quindi già sappiamo che è un padre che ha dei bambini piccoli, che ha fatto questa scena, quindi per me un radiodocumentario si deve testimoniare e raccontare una storia virtuosa di economia circolare, però io voglio sapere chi c'è dietro, perché ha voluto intraprendere questo nuovo lavoro, anche un po' complicato, anche un po' strambo. E poi il suono, ovviamente noi siamo tempestati da immagini fotografiche, ma anche nei giornali, anche se leggiamo un articolo è sempre corredato da video e immagini, non parliamo di televisione, di social network, eccetera. La radio si fa di voci, però si fa anche di suoni. Molto spesso una cosa per essere raccontata non ha necessariamente bisogno di troppe parole, a volte basta un suono, quindi se ci troviamo in un parco, se ci troviamo in una falegnameria, se ci troviamo in un negozio di oggetti musicali usati e riutilizzati, quindi basta quello, basta una porta che si apre e che cigola e già immaginiamo, perché secondo me il potere fondamentale della radio è più che dire, suggerire. Poi dopo tu ti costruisci tutto, anche attorno a una voce ti costruisci un volto, uno stile di vita, un modo di essere. Quindi secondo me il suono in un radiodocumentario è importantissimo, come quanto la storia che racconta, anche perché ne fa parte. E poi la curiosità, ovviamente se tu hai la curiosità di sapere come funzionano le dinamiche tra i protagonisti della storia, o vuoi cercare una storia inusuale, un punto di vista diverso per raccontare magari anche la stessa storia, perché in due potremmo scegliere di raccontare una storia ma in modo completamente diverso. E perché? Perché abbiamo delle curiosità diverse, dei punti di vista diversi e tiriamo fuori dalla stessa storia una cosa diversa. E poi il contesto sociale e territoriale, ecco, io infatti chiedevo a lei se ci sono dei movimenti, infatti vedi, ecco, lei ti racconta, io avrei dato per scontato che magari il centro nord era più ricco, invece lei ti spiega che effettivamente magari su sono già più abituati alla raccolta porta a porta, e quindi invece magari al sud si stanno abituando, hanno bisogno di uno strumento che loro stanno offrendo, quindi ti racconta sia la contemporaneità di quello strumento o di quell'azienda che si sta muovendo e sia l'utilizzo che le persone ne fanno, perché noi non vogliamo raccontare in sé un'azienda, appunto quello che dicevo prima, fare uno spot di un'azienda, a me interessa sapere a che serve, a chi serve e dove serve, in base al luogo in cui si trova e in cui è nata, cambia forse anche il punto di vista di chi l'ha creata e quindi anche il punto di vista di chi la utilizza. E infine la condivisione, questo appunto è proprio secondo me il concetto alla base anche proprio dell'economia circolare, no? Tu vuoi condividere delle cose che già hai e tramite un radiodocumentario, ma anche un reportage scritto, un video, un documentario video, eccetera, vuoi condividere queste pratiche, portarle a conoscenza di più persone possibile, in modo che si crei una sorta appunto di contagio virtuoso di una cosa che ritieni positiva. Quindi ecco, questi secondo me sono i consigli per una, cioè a partire dalla curiosità e dall'applicazione di tutte le caratteristiche che un luogo, una storia, una persona che ti racconta quella storia ha. Grazie Florinda. Perfetto, direi che ci siamo avviate alla fine della puntata, abbiamo parlato di economia circolare con Assud, quindi ringraziamo Alessandra di Assud e Florinda, sì, giurata di Assud. Ci stiamo anche avviando verso l'ultimo mese di Entropia Massima, giugno saranno le ultime puntate. Ricordo sempre che la radio non campa d'aria, che quindi se volete sottoscrivere Il conto corrente postale è il 61 80 4001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via di Volci 56, 00185 Roma. Il sito è sempre ondarossa.info, l'email è ondarossa@ondarossa.info, per chiamate 06 49 17 50. E quindi saluto tutte e tutti, soprattutto chi è privato della propria libertà personale. Arrivederci a lunedì prossimo.